cosa da bere, come ti chiami, cosa fai? Belle parole importanti, il cameriere fra di noi. Poi ci si guarda negli occhi e ci si dice una bugia. Interessante davvero, il fidanzato non ce l'hai. E c'è un pensiero che mi gira per la testa: fotografarti nuda su una bicicletta, lasciarsi andare e far l'amore in mezzo al mare. E poi nel letto è più tradizionale. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella per me. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella da desiderare. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella che ti ho scritto una canzone. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, sì, la televisione. Scusa, mi sono distratto, di che segno sei? Io sono un pesce fuor d'acqua e vorrei essere un DJ che trasmette su tutte le radio che mi sono innamorato. La vita non ha molto senso se non c'è un appuntamento. E se ci credi nell'amore a prima vista, e se ci credi mi hai colpito dritto al cuore, e non mi dire che non pensi a certe cose, che non è mica un disonore. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella da dimenticare. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella da desiderare. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella che ti ho scritto una canzone. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, sì, da televisione. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella. Ciao, vorrei fare 5 figli, adottarne 2 perché mi piacciono le famiglie abbondanti, generose ed ingombranti. Ho 2 sogni nel cassetto, 3 nell'armadietto, è una valigia di canzoni e mai nessuna è troppo. Troppo bella è troppo, troppo bella è troppo, troppo bella è troppo. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella da dimenticare. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella da moltiplicare. Vorrei fare tanti soldi, vedere come si sta. Mi piacciono i regali abbondanti, generosi ed ingombranti. Ho 2 sogni nel cassetto, 3 nell'armadietto.